Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 2 febbraio, buongiorno e ben ritrovati a tutte e tutte, ai nostri ascoltatori tra la città e il carcere, e rieccovi a Liberi Dentro e Duradio. La voce che vi arriva è sempre quella di Caterina Bombarda, la conduzione di questo programma, ma non sono mai sola perché con me c'è Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a tutti, diciamo anche in arabo, salam aleikum, poi willkommen in tedesco, welcome, e tutti i modi per salutare, magari li passiamo tutti in cinese, per esempio ni hao, ecco se ci sente qualcuno di origine cinese, quindi buongiorno a tutti davvero. Buongiorno a tutti e sempre al nostro programma che fa da ponte tra la città e uno dei quartieri più multiculturali, multietnici della città, che è appunto il carcere. E in questo caso noi parliamo da Bologna al carcere della Dozza, ma parliamo a tutte le carceri della regione Emilia-Romagna. Certo, e vogliamo anche dire che questa trasmissione è uno strumento anche per dire carcere, ci sono tanti problemi, inutili che ce li nascondiamo, li sanno tutti, li sanno quelli che sono dentro, se lo conoscono il personale, ma il carcere non sono solo problemi, è anche potenzialità di cultura. In carcere c'è tanta cultura, tanta ideazione, e noi vogliamo dare voce proprio a questa parte con la nostra trasmissione. Esattamente. E oggi, sempre parlando di notizie, ritorniamo, vi leggo un estratto dall'articolo sul sito di Antigone, proprio scritto da Patrizio Gonnella, che è il presidente dell'associazione Antigone, sul Manifesto, in realtà è uscito l'articolo stesso, che titola «Perché i detenuti vanno vaccinati prioritariamente, cioè prima di altre categorie di cittadini». E Gonnella fa un paragone molto interessante, perché lui dice innanzitutto che sono due le ragioni per cui i cittadini che ora sono in carcere meritano di essere vaccinati per primi. Il primo è la salute pubblica e l'altra è l'etica dei diritti umani, cioè ovvero il carcere è il luogo dove purtroppo si vive affollati, dove è complicatissimo mantenere le distanze, dove le condizioni igienico-sanitarie non sono certamente sempre ottimali. E lui fa un paragone, per esempio dice negli Stati Uniti, che certamente gli Stati Uniti sono tanti stati anche con le loro problematiche, però dice ci sono 19 focolai, i più consistenti sono avvenuti in altrettante prigioni, e le cattive condizioni di vita e il sovraffollamento hanno aggravato il problema. Però che cosa hanno fatto? In particolare i detenuti in Massachusetts sono stati tra i primi a essere vaccinati dallo Stato contro il coronavirus. Dunque Gonnella dice non si tema il linguaggio della paura e dell'odio e si aprano le carceri al vaccino per i detenuti e lo staff penitenziario, quindi mi raccomando gli agenti anche loro perché fanno un lavoro rischiosissimo e nel più breve tempo possibile. E poi dice si segua quanto autorevolmente richiesto, già ve l'ho citato, dalla senatrice a vita Liliana Segre e dal garante nazionale Mauro Palma. Ecco, do la parola a te. Quindi questa è una notizia importante. Noi molto, veramente, anche che frequentiamo il carcere, davvero firmiamo la petizione, incoraggiamo quanto è possibile perché si arrivi al vaccino il più presto possibile di tutta la popolazione carceraria. Ma dicevo appunto all'inizio che il carcere è un luogo di cultura, e la cultura si fa in tanti modi, anche a tavola. E cioè attraverso i cibi, lo sappiamo benissimo, noi che siamo in Italia, quanti tipi di pane abbiamo, quanti tipi di pasta asciutta, ecco, di sughi abbiamo, e così la cultura del mondo passa attraverso il cibo. La cosa è talmente importante che, guarda, questa notizia che ci arriva dal Nord Africa, importante, dice che il couscous, piatto popolare, simbolo dell'intero Nord Africa, è stato iscritto nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Il couscous è stato presentato all'Agenzia ONU su domanda congiunta di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia, annunciato l'UNESCO sul suo sito web. Fatto piuttosto raro nella storia dei paesi del Maghreb, Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia hanno presentato insieme la candidatura intitolata «Conoscenza scienze e pratiche relative alla produzione, al consumo di couscous. Quindi questo lo sappiamo in carcere, quando c'è una festa, ecco, un detenuto, una persona detenuta fa il suo piatto e poi preferito, il couscous, e lo distribuisce tra i compagni. Bene, è ora del nostro primo stacco musicale, però prima vorrei chiederti una cosa. L'hai scelto sulla base anche di un episodio che riguarda questa cantante. Ma sì, Umm Kulthum, la grande cantante egiziana, che è un genio già da bambina, mostrava eccezionale talento per il canto, al punto che all'età di 12 anni il padre la travestì da maschio per farla entrare in un piccolo gruppo teatrale che egli stesso dirigeva. Quindi era proprio, cioè aveva il canto scritto nel sangue, e lo si vede da questo pezzo stupendo che ascoltiamo, una piccola parte, Sirat al-Hub, storia d'amore. وسرت الحب وظلم الحب الكل أصحاب وعرف حكايات مليانة آفاق أعرف حكايات مليانة آفاق ودموع Eccoci sulle note musicali di Umm Kulthum e anche sulla sua storia un po' di infanzia di questa ragazzina già talento. E riprendo con le notizie adesso un pochino più, diciamo, culturali, perché ci spostiamo a Perugia, dove c'è questo laboratorio carcere e teatro, il teatro ai tempi del lockdown in carcere, perché ha preso a vita il progetto Voliera, un cortometraggio di Vittoria Corallo realizzato con detenuti, attori e tecnici della casa circondariale di Perugia Capanne. Pensate voi che questo spettacolo in realtà nasceva quando la pandemia ancora non c'era. Loro stavano facendo uno studio sull'opera di Aristofane, Gli uccelli, e proprio per il fatto che poi ci siamo ritrovati tutti a marzo dell'anno scorso bloccati dalla pandemia stessa, si sono cercate strade alternative alla rappresentazione dal vivo per evitare l'interruzione di questo progetto. E quindi è stato prodotto questo laboratorio, questo prima laboratorio che poi si è trasformato in un'opera stessa, che è stata messa in mostra, Voliera, della, appunto, ripeto, la regista Vittoria Corallo. Benissimo, è anche importante dire che il teatro è così importante, così richiesto, ci è stato richiesto da tante persone, anche per il nostro programma, che avremo ben 4 laboratori di teatro a partire proprio dall'inizio di febbraio. Siamo all'inizio di questa programmazione, quindi ci saranno Cantieri Meticci, Teatro dell'Argine, Teatro del Pratello, il coordinamento teatrale regionale, perché è molto importante per la vita in carcere. Ma io volevo, non so Caterina, se è possibile, se posso continuare. Assolutamente sì, perché tu devi parlarci oggi sempre di Galateo Arabo, e sempre continuando, l'altra volta abbiamo parlato di ciò che minaccia la pazienza, e oggi invece continuiamo con come vinciamo l'ira. Ecco, il primo regolo di vincere l'ira, l'avevamo visto ieri, era stato quello di tenere il silenzio, non aprire la bocca quando stai per scoppiare. Il secondo consiglio che viene dal Galateo Arabo, molto importante, cambiare aria, cambiare posizione. Sentite questo, cosa viene detto in arabo qua. Tahir bil julus in kana al-insanu al-ghadib ka'iman. أولي الدجاع والنوم إن كان جالسا، والحكمة في ذلك أنه في حال ثبات الحالة بالوقوف يكون الإنسان الغاضب أقرب إلى القيام بردات فعل عنيفة. Cioè, se tu sei seduto, alzati in piedi. Se sei adirato o se sei in piedi, stenditi. E insomma, cambia di posizione, mettiti in un'altra posizione, esci, vai fuori dalla porta, perché dice che se nel momento dell'ira che stai per scoppiare ti tieni nella posizione fisica in cui ti trovi, è più facile non trattenersi. E noi abbiamo una grande figura nella storia del cristianesimo, che è Teresa di Lisieux, che in convento c'era tanto motivo per arrabbiarsi, non credete che quel convento sia il paradiso terrestre, e lo sappiamo bene, ci sono tanti problemi, e diceva che in certi momenti la cosa migliore è fuggire, davanti all'ira è meglio fuggire. Darsi la gambe. Questo consiglio era in realtà un consiglio che ci veniva anche quest'estate dal sociologo Marco Bontempi, con cui abbiamo fatto un bel intervento su come affrontare quelle che sono le emozioni all'interno di spazi ristretti, ma non solo, ci arrabbiamo tutti anche in spazi non ristretti, certamente, e uno tra questi era quello per l'appunto di fare esercizio fisico. E torneremo su questo anche con Roberta Licalzi fra qualche giorno per parlare dell'esercizio fisico che possiamo fare in cella. Ma adesso è il momento di lanciare il secondo brano musicale di oggi, e io lancerei qualcosa che invece ci rende molto tranquilli, un brano musicale di Gian Maria Testa, Polvere di gesso. Ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa faccio un segno su un muro di questa città. Perché non è il tempo che mi manca, nemmeno l'età. Io ogni mattina quando parto lascio aperta la mia porta se qualcuno verrà. E poi metto polvere di gesso sul pavimento di casa per i passi che farà. Perché quando c'è una porta aperta di sicuro prima o dopo si sa. Tracce bianche sulla polvere che sa che qui non ci viene mai nessuno, e nemmeno per oggi non ci sono novità. E poi richiudo la mia porta per la notte, per il freddo che ci fa. Rieccovi su Liberi Dentro. Oggi siamo di nuovo con Rosanna Marion Sirignano. Buongiorno. E buongiorno. Continuiamo il percorso sulle nostre parole dalla cultura araba. La scorsa settimana abbiamo visto la parola Islam, che significa abbandonarsi. E oggi pensavo con Rosanna, che è una figura veramente eclettica, a tutto tondo, perché lei è dottoressa laureata in studi islamici, ma è anche formatrice, si occupa di tantissime cose, è scrittrice, e negli ultimi anni si è occupata in particolare anche di dialogo interreligioso e approfondimenti anche sulla spiritualità. E con te, quindi, Rosanna, sei proprio la persona giusta oggi per parlare di quelli che sono i pilastri su cui è fondata la fede islamica. Ce li vuoi un po' illustrare? E soprattutto dirci che cosa significa pilastro a questo punto, perché per non dare per scontato niente. Grazie, grazie mille. Quelli che sono appunto conosciuti come i cinque pilastri dell'Islam sono le cinque fondamenta della fede islamica che descrivono non soltanto un atteggiamento del cuore e quindi diversi aspetti della fede, ma sono delle vere e proprie pratiche, perché la fede senza l'azione, non riesce ad alimentarsi, la spiritualità, se lasciata andare, non cresce e in qualche modo non riesce a migliorarci come persone. Ed ecco perché l'Islam si fonda su cinque azioni, su cinque atti di culto, li possiamo chiamare. In arabo la parola pilastro si dice rukn, che vuol dire non solo pilastro, ma anche angolo. E possiamo immaginare questi quattro angoli, quindi arkan, il plurale di rukn, come quattro angoli di una stanza, come i quattro angoli che rappresentano le fondamenta di un edificio, di cui il quinto è al centro, perché il quinto, che in realtà è il primo in ordine di importanza, è la condizione necessaria per adempiere agli altri atti di culto. Il primo pilastro dell'Islam è appunto la shahada, che è la testimonianza di fede, quindi non la fede in astratto, ma è proprio la dichiarazione di fede, poi questi li approfondiremo piano piano. Il secondo, proprio in ordine di importanza, cioè come si compie l'Islam, come questo abbandono fiducioso a Dio diventa completo tramite appunto la preghiera, tramite il terzo pilastro che è il digiuno durante il mese di Ramadan, tramite la zakat che è il quarto pilastro, ossia l'elemosina rituale, cioè che è una parte di surplus del guadagno della persona che si dà in beneficenza, possiamo dire, a beneficio di chi è più vulnerabile. E il quinto pilastro è il pellegrinaggio alla Mecca da compiere almeno una volta nella vita se si ha la possibilità. Questi sono, ecco, sono i cinque atti di culto che completano in qualche modo la fede islamica. Musica. E rieccoci sulle note musicali di Giovanni Mirabassi e continuiamo il nostro percorso sui pilastri della fede islamica. E tu li hai appena elencati, però io volevo sapere come mai questo ordine cioè, il motivo principale, l'hai detto, il primo è al centro, sarebbe come i quattro angoli, e il primo, che è la testimonianza di fede, al centro, che diciamo regge tutti gli altri, però volevo anche sapere come mai poi hanno preso questo ordine tutti quanti, rispetto l'uno rispetto all'altro. Diciamo, possiamo dire che questi rappresentano un po' il cammino di fede in diverse fasi di maturità. Ad esempio, il pellegrinaggio alla Mecca è l'ultimo, proprio perché solitamente questo viene fatto in età avanzata, in cui si è già abbastanza avanti nel cammino spirituale ed è un po' il culmine della propria pratica, ecco, di fede, della propria pratica spirituale, ma non è detto. Il pellegrinaggio si può fare in qualunque momento della vita. I pilastri si distinguono anche in obblighi individuali, quindi chiaramente la testimonianza di fede e la preghiera sono obblighi individuali, così come il digiuno. Ovviamente però hanno delle precise regole che agevolano tutte le categorie di persone, cioè ad esempio le persone, le donne durante il ciclo mestruale non adempiono la preghiera, così come non adempie la preghiera la persona che è inferma mentalmente, così come non adempie la preghiera la donna che ha appena partorito per un periodo di tempo dopo il parto. Il digiuno, la stessa cosa, non adempiono al digiuno le persone che sono malate, che quindi hanno bisogno di prendere delle medicine durante il giorno. E per quanto riguarda l'elemosina e il pellegrinaggio, queste vengono assolte soltanto da una parte di comunità. E quindi in qualche modo, se una parte di comunità, quelli che possono permetterselo, adempiono a questi due obblighi, cioè che sono obblighi, ecco, non da considerare nel senso di obbligo come lo consideriamo in termini comuni, ma sono degli obblighi da considerare sempre in senso spirituale. Certo. Quindi possiamo dire che in realtà l'unico pilastro dell'Islam che rimane 24 ore al giorno con il musulmano è la testimonianza di fede, è l'affermare il credo nel Dio unico e nella rivelazione che è stata fatta tramite il profeta Muhammad. Questo è quello che li racchiude tutti, e anzi, importante, è la condizione basilare per essere musulmano. Cioè, se io non adempio alla preghiera, sono comunque musulmano. Se io commetto anche una serie di peccati, da quelli più gravi secondo l'Islam, che poi è una via etica, ci insegna a vivere eticamente come fanno tutti i sistemi religiosi, comunque resto musulmano adempiendo all'unico pilastro che è la shahada. Senza shahada non si è musulmani. Grazie. Detto tutti. Perfetto, grazie di averci fatto chiarezza su questo. Ritorneremo con te la prossima settimana per approfondirli tutti a questo punto. E un brano ora lo lancio io, siccome abbiamo parlato di in qualche modo vivere, e però lo faccio sul brano musicale di un nostro cantautore italiano, che è Vasco Rossi. La canzone si intitola Vivere. Vivere. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere. Passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perdere tempo, vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. mai contento vivere, come stare sempre al vento vivere, come ridere vivere. Anche se sei morto dentro, vivere, vivere, e devi essere sempre contento, vivere, vivere, è come un comandamento, vivere o sopravvivere, senza perdersi d'animo mai. E combattere, lottare contro tutto, contro oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Eccovi, siamo anche oggi arrivati ai saluti di fine puntata dopo aver ascoltato la nostra ospite Rosana Sirignano. Vi do appuntamento a domani con una nuova ospite, Roberta Licalzi, che avete già potuto ascoltare qui su Liberi Dentro. Lei è consigliera comunale di Bologna, ma è anche un'allenatrice e una ex giocatrice di calcio. Quindi ascolteremo le sue parole sul saper perdere, in particolare ci concentreremo. Vi ricordo sempre di scriverci all'indirizzo postale di Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure all'indirizzo di posta elettronica liberidentro.duradio@gmail.com. Buona giornata e noi ci rivediamo sempre domani, sempre qui a Liberi Dentro.